vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora, primo round. Tu vai fora ancora prima che suona la campanella. Una rima, una sberla, saluta la tua bella. Ogni testo è tipo un destro. Io dimostro grande estro, il mostro dietro il testo. Se vedi il terzo dito, odore di sfida. Se arrivo sul micro, odore di una bella figa. La tua gente sbava, la mia gente e grida. Poi lui mi dice brava, se faccio la cattiva. La tua tipa ha più mani addosso di una perquisa. Non è una troia, ma porta la sua divisa. Sarò concisa, ma la gente non gli basta. Dimmi come perdere contro una ragazza. Vengo senza museruola, vedo vinco spacco. Li porto tutti a scuola e poco dopo li sculaccio. Mai dubitare questo flow, il mio rap. Al mio show c'era una donna vera, ma volevano una ho. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Vecchia scuola, nuova scuola. Piaccio sopra il palco, come sotto le lenzuola. Prendo il beat e lo cavalco, yes. Roba fresh, italiana, non dagli USA. Ho mandato a casa una frana che non mi ha chiesto scusa. Ma chi è la regina? Maria Antonietta. Taglio la sua testa e gioco con la marionetta. Colpi di fretta, sotto la cintura. E dicono, tu sei una grossa nonostante la statura. Conosciuto i pesi massimi, tante pacche sulle spalle. Perché se faccio rap lo faccio con le palle. Gancio montante in tutte le salse. Non voglio soldatino, parlo con il comandante. Sono G.I. Jane oppure l'MVP. Fai la fine di Cobain se entri nel mio ring, sì. Li faccio in quattro parti, quattro infatti sopra quattro quarti. E dopo brinda l'after party. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Tu vai fuori, primo rap. Col team, la tua gente fa wow. La mia gente ti fa ciao, tu fai solo bow bow. Tu vai fuori al primo round. Tu vai fuori al primo. Fuori? Tu vai fuori al primo round.